voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Magaldi, l'innovazione che viene dal sud, di Alessandra Scaglioni. Letizia Magaldi parla con una voce sottile di nastri trasportatori in acciaio e di macchinari che servono a eliminare le ceneri delle centrali elettriche. È il business dell'azienda di famiglia, di cui rappresenta assieme al fratello la terza generazione e che porta brevetti italiani fino in Australia. L'azienda nasce in provincia di Salerno agli inizi del Novecento da un bisnonno inventore. Allora, il gruppo Magaldi nasce nel 1901 da un'intuizione del mio bisnonno, che inventò una cinghia fatta con pelli di bufala conciata, che era un nastro trasportatore particolare, perché tagliato e assemblato in maniera innovativa, e permetteva di essere inserito all'interno delle linee di produzione e non provocare rotture. Cioè, attraverso questa tipologia di nastro era possibile garantire la produzione che appunto prima funzionava con le cinghie di trasmissione senza interruzioni. È però il nonno che fonda l'azienda nel paese d'origine, Buccino, in provincia di Salerno, partendo proprio da quella prima invenzione. Quindi nel 1929 mio nonno riprese questa invenzione del padre e iniziò a commercializzarla. Quindi nel corso del tempo questa è stata, lui aveva sempre avuto una fortissima attenzione all'innovazione, già mio nonno, infatti la mia è un po' una famiglia appunto di inventori, e mio padre mi racconta che mio nonno, chiuso nel suo piccolo stabilimento, faceva tantissimi esperimenti proprio con prodotti chimici, perché lui appunto era un perito chimico, per cercare di rendere questa cinghia, questa concia della cinghia, sempre più efficiente, efficace, e quindi renderla più resistente. Con le innovazioni del caso, la cinghia di trasmissioni esiste a tutt'oggi ed è ancora commercializzata con successo nel campo dei trasporti di lamiere, per la sua eccezionale resistenza ai tagli. Tra l'altro questo prodotto oggi è ancora venduto, e nonostante un prodotto che ha 110 anni, è ancora considerata un'ottima tecnologia e viene venduta al settore delle automobili per trasportare lamiere, per trasportare materiale tagliente, perché essendo fatto in modo, appunto come le spiegavo, che la sua resistenza è stata molto alta, e le aziende che trasportano materiali che possono tagliare la utilizzano con molto favore. Lo stesso principio è alla base del prodotto di eccellenza del gruppo Magaldi, la tecnologia MAC, Magaldi Ash Cooler, per l'estrazione a secco della cenere prodotta dalle centrali elettriche a carbone, sviluppata da Mario Magaldi, padre di Letizia e attuale presidente del gruppo. Oggi la stessa tipologia di cinghia è in materiale d'acciaio e viene utilizzata per trasportare materiale ad altissime temperature. Noi trasportiamo materiale fino a 1000 gradi e siamo considerati la migliore tecnologia al mondo per il trasporto di materiale ad altissime temperature, e inoltre trasportiamo materiale polveri, quindi tutto ciò che ha una particolare difficoltà di gestione. Raccogliendo le ceneri residue della combustione delle caldaie a carbone, il sistema serve anche per risparmiare l'acqua e rendere le centrali a carbone più ecologicamente sostenibili. Le ceneri, che sono il residuo della combustione, in tutti i sistemi tradizionali al mondo vengono raffreddate ad acqua. Invece con il nostro sistema, che resiste ad altissime temperature, vengono raccolte sul fondo della caldaia, trasportate e raffreddate ad aria, con dei particolari studi termodinamici che dosano l'ingresso di aria. Quindi questo sistema cosa permette? Permette un grandissimo risparmio di acqua. Noi abbiamo montato 130 impianti in tutto il mondo, in tutte le grosse centrali a carbone. I nostri clienti sono Alstom, sono Enel, sono Eni, Babcock & Wilcox, Siemens, ed è considerata la best available technology per il trattamento proprio di queste ceneri. E come vi dicevo, c'è un grossissimo risparmio di acqua. Si conta che ad oggi sono state praticamente risparmiate quasi 200 miliardi di litri d'acqua con l'utilizzo di questo sistema, equivalenti più o meno 80.000 piscine olimpioniche. Si parla così tanto di clean coal, noi siamo una di quelle tecnologie che contribuiscono a rendere le centrali a carbone pulite. Il MAC è adottato nelle centrali termoelettriche di tutto il mondo ed è diventato uno standard riconosciuto per la maggior parte dei progetti di nuove centrali. Fu la sua commercializzazione a determinare, negli anni 80, la svolta per il gruppo Magaldi. Il primo cliente fu l'Enel. All'inizio veniva utilizzato più per il trasporto di materiali polverosi, soltanto che era un nastro così affidabile e così resistente che un giorno un dirigente dell'Enel, era estate, noi eravamo piccolissimi, io avevo 10 anni, mio fratello ancora più, mio fratello che adesso lavora in azienda, che è 2 anni meno di me, fu prelevato da mio padre, eravamo in vacanza al mare con mia madre il 10 agosto, disse devo correre all'Enel di Monfalcone perché un dirigente mi ha chiamato e devo risolvere un problema. Allora avevano proprio, era una piccola caldaia, avevano proprio questo problema, che questa caldaia sul fondo aveva questo materiale incandescente che non riuscivano a gestire, dovevano raffreddare con l'acqua, c'era problemi anche di pericolo per i lavoratori perché potevano comunque farsi male. E quindi mio padre andò lì e parlando con questo dirigente gli fu affidato questa commessa, diciamo, di ricerca, questo contratto per lo sviluppo di questa tecnologia. E avendo venduto un primo impianto funzionante all'Enel, questo ci ha permesso col tempo di avere una prima importante referenza e quindi di vendere in tutto il mondo, anche se comunque è molto difficile vendere un prodotto innovativo, specialmente quando si è un'azienda del sud Italia, perché noi siamo a Salerno. Oggi il gruppo Magaldi è presente in 5 continenti e in 30 paesi. Circa l'80% del fatturato arriva dall'estero. Abbiamo venduto dall'Australia al Cile, al Brasile, tutti i grossi costruttori di centrali elettriche. Quando decidono di investire in una tecnologia che rende pulite le loro centrali, ci contattano. Quindi sicuramente la soddisfazione oggi è grande. Oggi è considerato un prodotto consolidato e siamo i migliori, cioè siamo i leader di mercato. Oltre il 40% del fatturato viene realizzato in Europa, il 9% in Asia, il 15% in America e oltre il 31% in Australia. L'Australia è un paese molto attento all'ambiente e quindi è molto attento anche all'alta tecnologia. È stato facile far comprendere il valore della tecnologia e questo ci è stato riconosciuto subito. 4 i settori che fanno parte del gruppo. Il settore energia, di cui abbiamo appena parlato, e che rappresenta oltre il 60% del fatturato. Il settore fonderie e cementifici, il settore biomasse e, di recente, un impiego nelle energie alternative, con fotovoltaico e mini idroelettrico, oltre a un progetto di ricerca con Enel sul solare. Noi, il nostro fatturato nel 2010 è stato di 65 milioni di euro. L'80% del fatturato è fatto all'estero. Circa il 60% è del MAC, del settore MAC, un 20% del fotovoltaico e il restante 20% tra attività di service e attività delle fonderie, cementifici, biomassa. Insomma, questo è un po' il nostro settore. Siamo un gruppo attualmente con 240 dipendenti, 70 ingegneri e circa 70 tecnici specializzati, più 70 operai tra diretti e indiretti che sono presso lo stabilimento produttivo, perché noi facciamo dalla progettazione fino alla produzione fino all'installazione chiave in mano dell'impianto. Oggi alla guida dell'azienda il padre e 2 figli, mentre un terzo sta per arrivare in azienda. L'idea è quella di far proseguire la gestione familiare. Io lavoro in azienda da 10 anni, anche mio fratello, che è più piccolo di me, lavora anche lui da 12 anni, quindi noi siamo anche un po' nati all'interno dell'azienda. Io ricordo che scrivevo con la macchina da scrivere gli indirizzi sulle buste da lettera e tipo mi davano forse 100 lire a busta, quindi siamo un po' nati all'interno dell'azienda e la sentiamo parte di noi, quindi fin quando saremo in grado non la lasceremo mai. Adesso c'è il mio fratello più piccolo che ha 27 anni e lui sta lavorando in ingegneria, quindi sarà anche il tecnico dell'azienda. Abbiamo spinto anche molto sulla managerialità. Noi siamo l'azienda in questo momento a 10 dirigenti, nonostante siamo solo 250, perché crediamo che noi come famiglia non vogliamo essere impegnati nella gestione, ma vogliamo essere impegnati solo nella parte strategica. Cerchiamo di fare in modo che le persone crescano, aiutino a crescere l'azienda. Per un gruppo nato e cresciuto nella provincia di Salerno, la domanda è: come fare impresa al sud? Le imprese sono come degli alberi, nascono nei terreni fertili. Però spesso magari vediamo, cioè ci devono essere tutta una serie di fattori che contribuiscono allo sviluppo che conosciamo bene, che dal punto di vista finanziario, della legalità, delle risorse umane, cioè ci sono tutta una serie di fattori. Questi fattori a sud un po' scarseggiano, per tutta una serie di motivi storici, politici, sicuramente scarseggiano. è probabile che chi fa impresa al sud ha molta più difficoltà, ma anche solo di credibilità, perché io ho trovato delle lettere di mio nonno degli anni 50 che scriveva ai clienti e diceva: non, noi siamo del sud, è vero, però siamo veramente la migliore cinghia di trasmissione, per favore prendeteci in considerazione, nel senso che c'è anche in alcuni casi anche un po' una resistenza. Quindi è forse possibile che si debba fare più fatica, però probabilmente quando si fa più fatica si diventa anche più bravi. Ma nel sud, a Buccino, la famiglia Magaldi ha intenzione di restare. Non abbiamo mai voluto abbandonare questo sud, non credo che l'abbandoneremo mai, perché poi dal punto di vista delle persone, le persone danno veramente l'anima, cioè quelle che lavorano con noi sono veramente dedicate all'azienda tantissimo, come dicevo abbiamo gli stessi operai da 35 anni, c'è questo piccolo paese Buccino molto carino, che è una vecchia, un antico paese romano, è il IV secolo a.C., zona archeologica bellissima, dove c'è tutto il paese che vive con noi, quindi c'è un forte legame con il sindaco, con le famiglie, io sento, c'è anche una grossa volontà di proteggere questa realtà. Avete ascoltato Voci d'Impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.